Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Ödön von Horváth, traduzione di Bruno Maffi. Uno dei cinque. Sto lavandomi i denti quando la mia padrona bussa alla porta. C'è uno scolaro che vorrebbe parlarle. Un momento, infilo una vestaglia. Uno scolaro? Ma che cosa vuole? Mio malgrado penso a te. Ho avuto questa vestaglia per Natale dai miei genitori. Hanno sempre detto che non potevo vivere senza vestaglia. È verde e lilla. I miei genitori non hanno il senso del colore. Bussano. Avanti! Lo scolaro entra e saluta. Lo riconosco subito, è uno dei B. Avevo 5 B in classe, ma questo è il più insignificante. Che cosa vuole? Come mai non sfila come tutti gli altri? Professore, incomincia, ho riflettuto molto se poteva interessare. Credo sia necessario che parli. E di che cosa? Della faccenda della bussola. Non mi dà pace. La bussola? Sì, ho letto sui giornali che presso il cadavere di N è stata trovata una bussola che nessuno sa di chi fosse. Difatti è così, ebbene, so chi l'ha perduta. Chi, dunque? Ti. Ho un sussulto. Ti? Nuoti di nuovo nei miei paraggi, eh? La tua testa emerge dalle acque cupe. Vedi la rete, nuota, nuota. Come fai a sapere che la bussola era di te? Chiedo a B, sforzandomi di sembrare indifferente. Perché l'ha cercata dappertutto. Dormivamo nella stessa tenda. Non vorrai insinuare che T abbia a che fare col delitto? Tace e guarda in un angolo. Sì, è questo che vuole insinuare. Credi T capace? Mi guarda interdetto. Lo credo capace di tutto, dice. Ma non di un delitto. E perché no? Sorride. No, non ironico. Triste piuttosto. Ma perché avrebbe ucciso N? Perché? Non c'è l'ombra di una ragione. Diceva sempre che N era molto stupido. Non è una ragione. È vero, ma vede, professore, T è di una curiosità spaventosa. Vuole sempre sapere come stanno le cose e una volta mi ha detto che gli sarebbe piaciuto vedere uno morire. Come? Sì, avrebbe voluto vedere come avviene. Ha anche detto una volta che gli sarebbe piaciuto vedere come nasce un bambino. Vado alla finestra. Per un attimo non riesco a parlare. Fuori continuano a sfilare genitori e bambini, ma perché diavolo B è venuto a trovarmi? Perché non sfili anche tu, chiedo. È pure il tuo dovere. Sogghigna. Mi sono dato ammalato. I nostri sguardi si incontrano. Ci capiamo, dunque? Non ti tradirò, dico. Lo so. Che cosa sai? Penso. Non mi piace più sfidare. E neppure mi va questa storia del comando. Il primo venuto ti riempie la testa di urla semplicemente perché ha 2 anni più di te. E quei discorsi, sempre gli stessi, pure stupidaggini. Non posso fare a meno di ridere. Spero che sarai il solo in classe a pensare così. Oh no, siamo già in 4. 4 di già? Da quando? Ricorda, professore, quando ha parlato dei negri in primavera, prima di partire per il campo? Abbiamo tutti firmato che non la volevamo come professore, ma io l'ho fatto dietro comando, perché lei aveva ragione, naturalmente, per i negri. E poi ce ne sono stati altri 3 che si sono espressi nello stesso modo. Chi? Non lo posso dire, è proibito dal nostro codice. Quale codice? Abbiamo formato un club, vi aderiscono altri 2, ma non del liceo. Uno è apprendista fornaio, l'altro è un fantino. Un club? Sì. Ci riuniamo settimanalmente e leggiamo tutto ciò che è proibito. Che cosa diceva Giulio Cesare? Di nascosto si legge, ma soltanto per riderne. Il loro ideale è il dileggio. Andiamo verso tempi freddi. Domando a B. Allora vi riunite per ridere di tutto, eh? No. L'ironia è severamente proibita dal paragrafo 3. Sì, ci sono dei ragazzi che ridono di tutto, per esempio T. Ma noi non siamo di quelli. Ci riuniamo per discutere su quello che abbiamo detto. E poi? E poi parliamo del mondo, come dovrebbe essere. Ascolto. Come dovrebbe essere? Guardo B e rivedo Z. Dice al presidente: il professore parla del mondo come dovrebbe essere, non come è. E vedo T. Che cosa ha detto Eva? N cadde, il giovane sconosciuto si curvò sopra di lui e lo esaminò, poi lo trascinò nel fosso. E che cosa ha detto B poco fa? T vuole sempre sapere come stanno le cose. Perché? Per ridere di tutto? Sì, tempi freddi ci attendono. A lei, professore, si può dire tutto, riprende la voce di B. È per questo che sono venuto a esporle il mio sospetto e decidere sul da farsi. Perché proprio da me? Ieri al club, quando abbiamo letto la sua deposizione, abbiamo riconosciuto che lei è l'unico adulto, per quanto ci consta, che ami la verità. Il club dà battaglia. Oggi vado con B dal giudice istruttore. Ieri il suo ufficio era chiuso per via della festa. Spiego al giudice che B sa a chi apparteneva la bussola, ma egli mi interrompe cortesemente. Il mistero della bussola è ormai stato svelato. Si è potuto stabilire in modo incontestabile che lo strumento era stato rubato al sindaco del villaggio, nelle cui vicinanze il campo sorgeva. Probabilmente la ragazza o uno della sua banda l'aveva perduta prima del delitto, che era avvenuto notoriamente non lontano dalla caverna in cui i ladruncoli abitavano. La bussola non aveva più nessuna importanza. Non ci resta dunque che salutarci. B fa una smorfia di delusione. Non ha più nessuna importanza, mi chiedo. Senza la bussola B non sarebbe mai venuto a trovarmi. Mi accorgo che adesso penso molto diversamente da prima. Dappertutto vedo segreti rapporti. Tutto ha importanza ora. Una legge incomprensibile mi si è rivelata. Per le scale incontriamo l'avvocato difensore. Mi stringe cordialmente la mano. Volevo, dice, ringraziarla per la lettera. La sua deposizione così franca e coraggiosa mi ha permesso di chiarire il dramma. Aggiunge che Zeta è guarito del suo amore, che la ragazza ha avuto un attacco di nervi ed è stata ricoverata all'infermeria della prigione. Poverina, aggiunge in fretta, e corre verso altri drammi da chiarire. Lo seguo con gli occhi. La ragazza mi fa paura, dice improvvisamente B. Anche a me. Scendiamo la scala. Bisognerebbe aiutarla, dice B. Sì, rispondo. E penso agli occhi di lei e ai laghi tranquilli nelle foreste del mio paese. Eva è all'infermeria e le nuvole passano anche sopra di lei, le nuvole dagli orli d'argento. Non mi ha fatto un piccolo cenno col capo prima di confessare la verità? E T che cosa ha detto? Che è l'assassina e che ha mentito per discolparsi. Odio T. D'un tratto mi fermo. È vero, chiedo a B, che a scuola mi chiamate il pesce? Oh no, è T che usa quel soprannome. Lei ne ha un altro. Quale? Il negro? Ride. E rido anch'io. Continuiamo a scendere la scala. Improvvisamente B si fa serio. Dica, professore, non crede che sia stato T, anche se la bussola non era sua? Mi fermo. E che cosa devo dire? Devo dire, è possibile, forse, in certe circostanze, e dico sì, credo che sia stato lui. Gli occhi di B si accendono. È stato lui, dice esaltandosi, e lo faremo arrestare. Sperabile. Farò votare al club una mozione che ci impegni ad aiutare la ragazza. Secondo il paragrafo 7 non dobbiamo soltanto leggere libri, ma vivere come i libri ci insegnano. Gli chiedo, qual è il vostro motto? Per la verità e la giustizia. Ha fretta di agire. Il club seguirà T passo passo, giorno e notte, e ogni giorno mi manderà un rapporto. D'accordo, rispondo, e non posso trattenere un sorriso. Anche nella mia giovinezza si giocava ai pelle rosse, ma oggi la giungla è ben diversa. Oggi è qui, in mezzo a noi. Due lettere. L'indomani mattina ricevo una lettera desolata dei miei genitori. Sono fuori di sé perché ho perduto il posto. Come mai non ho pensato a loro, raccontando l'inutile storia della cassetta, e perché l'ho raccontata? Ma sì, ho pensato a voi, anche a voi. State tranquilli, non moriremo di fame. Mia madre scrive, non abbiamo dormito tutta la notte pensando a te, e mio padre, che cosa abbiamo fatto per meritare una cosa simile? Egli vive della pensione e io ora devo pensare a Dio. Credo che non abiti più da loro, per quanto vadano tutte le domeniche a messa. Mi siedo al tavolino e scrivo, cari genitori, non datevi pensiero, Dio provvederà. Mi fermo. Perché? Sanno che non ci credo. E ora penseranno, ecco, ora che gli va male, parla di Dio. No, nessuno deve pensare questo. No, mi vergogno. Straccio la lettera, sì, ho ancora il mio orgoglio. E per tutta la giornata penso che dovrei scrivere a papà e mamma, ma non lo faccio. Comincio più volte la lettera, ma non mi decido a scrivere la parola Dio. Cade la sera e ho di nuovo paura della mia stanza. È così vuota. Esco. Se andassi al cinema, no. Entro nel caffè a Buon Mercato, vi incontro Giulio Cesare. È felice di vedermi. È stato molto bello da parte sua raccontare la faccenda della cassetta. Molto bello davvero. Io non l'avrei fatto. Congratulazioni. Beviamo e parliamo del processo. Io gli parlo del pesce. Mi ascolta con grande attenzione. «Naturale che è stato il pesce», dice quando ho finito. «Se posso esserle d'aiuto, mi metto volentieri a sua disposizione, poiché anch'io ho delle conoscenze». Sì che ne ha. Il nostro dialogo è continuamente interrotto. Vedo che lo salutano con rispetto, che molti lo avvicinano e gli chiedono consiglio, poiché è un uomo saggio e navigato. Tutta gramigna. «Ave Cesar, morituri te salutan!» D'un tratto mi prende la nostalgia di una vita bizzarra. Come mi piacerebbe avere per spilla da cravatta una testa da morto da illuminare a volontà. «Stia attento alla lettera!» mi grida Giulio Cesare. «Sta per uscirle di tasca!» «Ah sì, la lettera!» Giulio Cesare sta spiegando a una ragazza le nuove disposizioni di leggi sulla moralità pubblica. Penso a Eva. Come sarà quando avrà l'età di quella ragazza? Chi l'aiuterà? Mi siedo a un altro tavolo e scrivo ai miei. Non state in pena. Dio ci aiuterà. E questa volta non straccio la lettera. Oh, l'ho scritta solo perché ho bevuto. Che importa? Autunno. L'indomani la padrona di casa mi consegna una busta azzurra. Dice che l'ha lasciata a un fattorino. L'apro e non posso fare a meno di sorridere. In alto si legge: primo rapporto del club. E sotto: non abbiamo notato nulla di particolare. Povero club. Combatte per la libertà e per la giustizia e non nota nulla di particolare. Neppure io, del resto. Che fare perché non la condannino? Penso sempre a lei. Ne sono innamorato? Non lo so. So soltanto che vorrei aiutarla. Ho avuto molte donne, poiché non sono un santo e neppure le donne lo sono, ma adesso è un'altra cosa. Che sia l'età... assurdo. È ancora estate. Intanto ogni giorno ricevo una busta azzurra, secondo, terzo, quarto, quinto rapporto del club. Sempre nulla da segnalare e i giorni passano. Le mele sono già mature e la sera c'è nebbia. Le greggi rientrano, la campagna è brulla. Sì, è ancora estate, ma c'è già odore di neve. Vorrei aiutarla perché non abbia freddo. Vorrei comprarle un paltò, delle scarpe, della biancheria. Non è necessario che si svesta davanti a me. Vorrei soltanto sapere se è già tempo di neve. Tutto è ancora verde. Non è necessario che mi sia vicina. Basta che non soffra. Visita. Stamane ho ricevuto una visita. Non l'ho riconosciuto subito. Era il parroco col quale una volta mi sono intrattenuto sugli ideali dell'umanità. Era in abito civile, pantaloni grigi e giacca blu. Rimasi un attimo interdetto. Fuggito? Si meraviglia che sia in abito civile, sorride. Ma lo sono quasi sempre. In breve, ho finito il mio periodo di punizione. Ma parliamo di lei. Ho letto sui giornali la sua coraggiosa deposizione e sarei venuto a trovarla prima se avessi avuto il suo indirizzo. Mi sembra profondamente cambiato, non so perché, ma non è più lo stesso, davvero. Sembra molto più sereno. Più sereno? Sì. Del resto può ben rallegrarsi di aver raccontato la faccenda della cassetta, anche se mezzo mondo la calunnia. Ho spesso pensato a lei, sebbene o forse proprio perché non crede in Dio. E poi nel frattempo chissà che non abbia cambiato idea. Dove vuole arrivare, penso, e lo guardo con diffidenza. Dovrei comunicarle qualcosa di importante, ma prima la prego di rispondere a due domande. Primo, si rende conto che, anche se la giustizia non insiste in un procedimento contro di lei, non potrà mai più insegnare in questo paese? Lo sapevo anche prima di deporre in tribunale. Me ne rallegro. Secondo, di che cosa pensa di vivere ora? Immagino che non sia azionista di una segheria, dal momento che quel giorno prese con tanta violenza la parte degli operai e dei bambini seduti alle finestre. Ricorda? I bambini seduti alle finestre. Li avevo completamente dimenticati. E la segheria che non lavora più. Come tutto è lontano, come in un'altra vita. Non ho nulla, dico. E devo aiutare i miei genitori. Mi guarda stupito e dopo una breve pausa aggiunge: avrei un posto per lei. Come? Un posto? Sì, ma in un altro paese. Dove? In Africa? Dai negri. Penso che mi chiamano il negro e non posso fare a meno di ridere. Lui rimane serio. Che cosa c'è da ridere? I negri sono uomini come tutti gli altri. A chi lo dice, potrei rispondergli. Ma preferisco ascoltare che cosa mi propone. Potrei, dice, insegnare in una scuola di missionari. Devo entrare in un ordine. No, non è necessario. Rifletto. È vero che adesso credo in Dio, ma non credo che i bianchi facciano il bene dei negri. Essi portano loro Dio come un sordido affare, e glielo dico, non si turba. Dipende da lei che la sua missione non diventi un sordido affare. Ascolto. una missione. Ogni uomo ha una missione, dice. È vero. La mia per il momento è quella di acchiappare il pesce. E dico al parroco che andrò in Africa, ma solo quando avrò liberato la ragazza. Mi ascolta attentamente, poi dice: se crede che sia stato quel ragazzo a compiere il delitto, deve andarlo a dire alla madre. La madre deve sapere tutto. Ci vada, subito! Il capolinea. Vado dalla madre di T. Il bidello me ne ha dato l'indirizzo. Si è comportato con molto riserbo con me perché non avrei dovuto varcare la soglia dell'istituto. Sta tranquillo che non verrò più. Parto per l'Africa. Sono seduto in tram. Devo andare al capolinea. A poco i bei palazzi si fanno più radi. Attraversiamo povere strade. Infine ecco l'elegante quartiere delle ville. Capolinea, grida il bigliettaio. Si scende. Nella carrozza ci sono soltanto io. L'aria qui è molto più pura che dove abito. Dov'è il numero 23? I giardini sono curati. Non ci sono cocci di vetro né grotte in finto granito. Ah, ecco il numero 23. La porta è solenne. La casa non si vede perché il parco è grande. Suono e aspetto. Viene il portinaio, un vecchio. Non apre. Desidera? Vorrei parlare con la signora T. A che proposito? Sono il professore di suo figlio. Subito! Apre il cancello. Attraversiamo il parco. Oltre un abete vedo la casa, quasi un palazzo. Un cameriere ci aspetta, il portinaio mi affida a lui. Il signore vorrebbe parlare con la signora, il signore è il professore del signorino. Il cameriere mi ossequia. Temo che sia difficile, dice. La signora ha visite. Le devo parlare di una cosa molto importante. Non potrebbe prendere un appuntamento per domani? No, si tratta di suo figlio. L'uomo sorride, abbozza un piccolo gesto sdegnoso. La signora non ha molto tempo da dedicare a suo figlio. Anche il signorino di solito deve prendere appuntamento. Senta, dico, e lo guardo male, mi annunci immediatamente o si prende una grossa responsabilità. Mi guarda un attimo sconcertato, poi fa un leggero inchino. Sta bene, proverò. Voglia entrare, la prego. Perdoni se le passo davanti. Entro attraverso una splendida anticamera. Salgo al primo piano. Una signora scende la scala. Il cameriere la saluta. Lei gli sorride, sorride anche a me, ma io la conosco. Ma chi è? Continuiamo a salire. È l'attrice cinematografica X. Mi sussurra il cameriere. Ah, è vero. L'ho vista poco tempo fa nella parte di un'operaia che sposa il direttore dello stabilimento. È l'amante del plebeo in capo. Poesia e verità. È un'attrice divina, afferma il valletto mentre arriviamo al primo piano. Da una porta aperta giungono risa di donne. Devono essere nella stanza in fondo, penso. Prendono il tè. Il domestico mi introduce in un salotto a sinistra e mi prega di sedere. Farà tutto il possibile per farmi ricevere. Chiude la porta e mi lascia solo. Aspetto. Non è tardi, ma le giornate si accorciano. Alle pareti sono appese vecchie stampe. Giove e io. Amore e psiche. Maria Antonietta. È un salotto rosa con molto oro. Dalla mia sedia vedo intorno al tavolo altre sedie. Quanti anni? Presto due secoli. Quanta gente si è seduta su di voi. Gente che diceva: domani andiamo a prendere il tè da Maria Antonietta. E gente che diceva: domani andiamo all'esecuzione di Maria Antonietta. Dove sarà Eva? Sperabile che sia ancora all'infermeria. Almeno avrà un letto. Sperabile che sia ancora ammalata. Mi avvicino alla finestra e guardo fuori. L'abete nero diventa sempre più nero perché cala la sera. Aspetto. Finalmente una porta si apre, adagio. mi volto, deve essere la mamma di T. Come sarà? Ma con mia grande sorpresa mi vedo davanti lo stesso T in persona. Mi saluta gentilmente e dice: «Mia madre, quando ha saputo che era qui, mi ha fatto chiamare, signor professore, e non ha tempo, purtroppo». «Ah, e quando avrà tempo?» Alza le spalle con aria stanca. «Non so, non ha mai tempo». Osservo il pesce. Sua madre non ha tempo. Che cosa fa dunque? Non pensa che a sé. E non posso fare a meno di pensare al parroco e agli ideali dell'umanità. È vero che i ricchi vincono sempre. Il vino non si trasforma in acqua. E dico a te: «Se tua madre è sempre occupata, potrei parlare a tuo padre. Papà non è mai in casa, è tanto se lo vedo. Dirige un consorzio». «Un consorzio? Vedo una segheria che non lavora più. I bambini siedono alle finestre e verniciano bambole. Risparmiano la luce perché non hanno luce. E Dio cammina per tutte le strade. Vede i bambini e la segheria. Arriva, eccolo, davanti al cancello. Il portinaio non lo lascia entrare. Desidera? Vorrei parlare coi genitori di T. A che proposito? Lo sanno già. Sì, lo sanno, ma non lo aspettano. Ma che cosa vuole dai miei genitori? Sento la voce di T. Lo osservo. Ora sorride, penso. Ma non sorride, guarda soltanto. Sospetta che sta per essere preso? Improvvisamente i suoi occhi prendono luce, la luce della paura, e dico: «È di te che voglio parlare ai tuoi genitori. Peccato che non abbiano tempo». «Di me?» sogghigna. «Fatuo. Tu, così avido di sapere, sei lì come uno sciocco. Ora pare che ascolti. Che cosa gli batte intorno? Che cosa sente? Le ali della follia. Me ne vado». Marco Foschi ha letto «Gioventù senza Dio» di Eugen von Horvath, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Amorese. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it. Ad alta voce è un programma Rai, Radio 3.